Bolanena bato, nadango tete bebanyo.

sanera sega miango ikonye omuti mwawase babona kibijane aduwo babona simba bole pena nato na muti mwawase mwebobe babona kibijane aduwo babona simba bole pena natanera sega miango Sega miango, liko yomu di mawase. Bamona ti bijane aduwo, bamona ti babo lempenae. Natane na sega miango, namu di mawase mwipobe. Bamona ti bijane na misore, bamona ti babo lempenae. Thank you. Vamos.